Beh, diciamo solista, non solitaria. Dai. Sì, no, esatto, diciamo solista, vabbè, è vero, anche perché poi appunto magari nel corso di questa chiacchierata verrà fuori e insomma i tuoi compari ti hanno suggerito, ti hanno aiutato nel realizzare quest'opera, giusto? Sì, loro e una vasta comunità di persone, quindi che debitamente ringraziato nei titoli di coda, quindi sì, anche i nostri libri solisti sono sempre collettivi. Certo, ecco, a proposito appunto della realizzazione di questo libro, nei titoli di coda appunto tu spieghi che ha avuto una lunga gestazione, lunga 14 anni. Sì, esatto, perché la prima idea, il primo nocciolo narrativo, il primo nucleo, ecco, risale al 2005, nel 2005 mi venne l'idea di ambientare una storia al confine di Ventotene, una storia che mettesse insieme appunto la ricostruzione minuziosa di com'era la quotidianità di quegli antifascisti confinati, con anche però un piano fantastico e uno fantascientifico, e in buona sostanza avevo già tutta la storia alla fine del 2005, avevo un soggetto, come si direbbe in gergo cinematografico, però poi per varie vicissitudini è rimasto un soggetto a lungo. Ogni tanto nel corso degli anni lo riprendevo fuori dal cassetto, lo ampliavo, facevo un po' di ricerca in più, finché nel 2017 non ho deciso di scriverlo, e quindi da lì in avanti ci sono messo. Certo, ecco, tu hai già anticipato una cosa che allora a questo punto affrontiamo, che è un po' il nocciolo anche dello stile con cui è scritto questo libro, e diciamo che conferma una tendenza appunto di tutto il collettivo Wuming, tu mescoli storia, mitologia e fantascienza in questo libro. Sì, dunque cerchiamo di fare il minor numero di spoiler possibile. No, certo. Nessuno può averlo ancora letto perché esce oggi. Certo. Sì, chiaramente c'è un campo di sperimentazioni del collettivo Wuming che include anche la macchina del vento. Pur essendo l'idea iniziale risalente a molti anni fa, però chiaramente nel momento in cui l'ho ripreso in mano, il collettivo era già immerso in una temperie, stava vivendo una nuova fase della sua carriera, della sua poetica. Diciamo, già con l'armata dei sonnambuli c'era un elemento che potremmo chiamare di fantascienza retro, di fantascienza rococò, di fantascienza vintage, settecentesca. Alcuni hanno detto steampunk, lo steampunk richiama un immaginario più vittoriano, edoardiano e comunque di area anglosassone, invece qui appunto forse il rococò è quello che rende di più l'idea. Dall'armata dei sonnambuli in avanti appunto troviamo Proletkult ovviamente, e adesso c'è la macchina del vento, ma si può vedere una progressione in questo. Certo, ecco, insomma tu racconti la vita, come hai già anticipato, dei confinati dal fascismo nell'isola di Ventotene, diciamo che anche già dal titolo tu riecheggi quello che invece è un altro libro, La macchina del tempo, di Herbert George Wells, che tra l'altro è uno dei libri banditi dal nazismo. Sì, ed è un libro che esce durante il ventennio in Italia, però con dei tagli molto significativi, delle parti dove il narratore fa delle considerazioni politiche, ideologiche di fronte a questa società del futuro remotissimo, dove fa un'analisi di classe, si può dire proprio di, insomma, Wells era un socialista, ecco, un po' forse all'acqua di rose per certi, però insomma nel libro fa delle considerazioni anche molto radicali, anche su questioni di genere, ad esempio, e quella parte lì, stranamente, nell'edizione italiana del 29 non ci sono. Sono pagine su pagine su pagine di riflessioni che nell'edizione italiana non ci sono. O per autocensura della casa editrice, che sapeva che comunque la censura del regime avrebbe colpito, oppure proprio per indicazione diretta della censura del regime. In ogni caso quella parte lì non c'è, per dire che comunque è un libro che contiene più di quello che dice il cliché, ed è un libro che ha una parte centrale nella trama del mio. È un libro su un libro, il mio, cioè nel senso che il romanzo di Wells è un po' al centro di tutto un vortice di eventi che si scatena con l'arrivo di questo personaggio, un fisico, romano che si chiama Giacomo Pontecorboli, il suo arrivo nel 1939 sull'isola di Ventotene, in catene, sconvolto dal viaggio in nave e tutto quanto. Certo, io sto cercando di muovermi senza appunto spoilerare, effettivamente. Un'altra cosa che mi ha colpito è che sono presenti due lingue e un dialetto, diciamo così. Stavo per dire tre lingue, ma due lingue e un dialetto, no? L'italiano, il greco e il dialetto ferrarese, che poi è il dialetto che ti appartiene. Sì, perché il protagonista Leonardo Dante è un ferrarese, è un ex studente del liceo classico Ariosto che ha fatto lettere a Bologna e cospirava clandestinamente, un giovane socialista del Partito Socialista Clandestino. A un certo punto viene arrestato, si fa prima il carcere e poi finisce al confino a Ventotene, e tutta la vicenda è filtrata dal suo sguardo, uno sguardo fortemente contaminato, pieno di reminiscenze della sua vita, del suo passato, dei suoi studi. E lui ha un grande cruccio, e lo dice fin da subito, questo non è uno spoiler, il fatto di non essere riuscito a laurearsi. Aveva un'idea brillante per la tesi, che era i mari d'Italia e gli arcipelaghi d'Italia nel mito greco, e quindi quando si trova lì a Ventotene, proprio immerso nel mare del mito, chiaramente è posseduto da fantasticherie legate appunto al mondo degli dei dell'Olimpo. Certo, ecco, la tesi del protagonista, che nel libro è anche Lio narrante, insomma, questo possiamo dirlo, ci riporta un po' anche all'attualità che ha questo libro. Si parla di Mediterraneo, ma si parla anche appunto di confino. Sono elementi che tu esplicitamente, alla fine appunto nei titoli di coda, richiami sul presente, su ad esempio i compagni che vengono raggiunti da divieti di mora, eccetera eccetera. Sì, io questa storia l'ho ripresa in mano nel 2017, non a caso. Il 2017 è l'anno in cui inizia tutto quello di cui si sta, cioè non è che inizia, però è il tipping point, è il momento in cui c'è un'escalation di discorsi e di pratiche, che è la stessa che ci troviamo a fronteggiare ora. Cioè il governo è diverso, ma le politiche sono assolutamente le stesse. Cioè è l'anno del codice Minniti, delle polemiche contro le ONG che salvano le vite in mare, dei porti chiusi. È l'anno del decreto Minniti Orlando, dell'introduzione del DASPO urbano. Quindi è proprio di fronte a tutto questo, ho detto, beh, insomma, la storia che ogni tanto tiro fuori dal cassetto da 12 anni è più attuale che mai, e probabilmente nel momento in cui avrò finito di scrivere uscirà, sarà ancora più attuale che adesso. Quindi mi ci sono messo di buona lena per svilupparla e per scriverla. Sono anche andato a Ventotene a fare tutti i miei sopralluoghi. Io lavoro come i geometri, no? Mi manca solo il Teodolite. Sono andato sull'isola in modo da ambientare tutte le scene in maniera precisa e tutto quanto. Sono ritornato a studiare il confino, ho ripreso in mano sia i libri che avevo già in casa, sia ne ho consultati parecchi altri, memorie di confinati, carteggi di confinati, studi sulla misura del confino, biografie e tutto quanto, e alla fine è venuta fuori questa cosa. Un elemento, ovviamente, quando si pensa all'ambientazione, cioè all'isola di Ventotene, è ovviamente il famoso manifesto di Ventotene, che viene considerato uno dei testi fondanti dell'Unione Europea. Sì. Nel libro il protagonista però fa anche una critica a questo manifesto, una critica molto efficace. Io l'ho interpretata, poi dimmi se sbaglio, anche a una critica alla retorica che poi è dei giorni nostri in realtà, che si usa sul manifesto di Ventotene, no? Per giustificare un certo europeismo, un certo, sì, senso. Entrambe le cose. Allora, intanto va detto che in realtà quando il manifesto di Ventotene cominciò, che allora non si chiamava così, è una titolazione molto posteriore, si chiamava Per un'Europa libera e unita, ed era anche un po' diverso rispetto a quello che poi è andato in stampa. In ogni caso, quando comincia a circolare questo manoscritto clandestinamente tra i confinati, cioè questo non è un mistero, lo ha sempre raccontato anche Spinelli stesso, la reazione fu di rigetto, cioè nel senso che Il documento fu sottoposto a variegate critiche che poi inasprirono anche gli animi, tanto che i suoi autori furono, i autori firmatari furono praticamente isolati dagli altri confinati. Okay, quindi questa cosa ventotene, culla dello spirito europeo, questo mito, no, sul fatto che fu scritto il manifesto di Ventotene e squarciò i cieli, intanto per decenni rimase in buona sostanza sconosciuto il manifesto di Ventotene, è una leggenda molto recente, no, il fatto che c'è questo sovraccarico, no, di prometeismo per cui viene scritto questo testo e divide il Mar Rosso e cose del genere. In realtà divise solo la comunità dei confinati, non aggregò nessuno, e anche nel dopoguerra aggregò veramente pochissima gente. Quindi le critiche che fa il protagonista, e non solo, cioè adesso poi non spoileriamo perché è anche certo un elemento di sorpresa, le critiche che fa il protagonista sono in buona sostanza critiche che circolavano all'epoca sull'isola. Chiaramente in esse riverbera il fastidio per tutte queste cose, di questi Renzi che va a Ventotene quando è premier, arriva con l'elicottero al carcere di Santo Stefano, va a vedere la tomba di Spinelli, cioè questa cosa del cercare il mito fondativo, il mito delle origini, anche per le schifezze di oggi, per l'austerity, per come è stata trattata la Grecia e tutto quanto, e questa roba del questo stereotipo continuamente riproposto, Ventotene culla dello spirito europeo, la storia di quell'isola e del confine è molto più complessa, ricca e variegata di questo piatto cliché, e quindi volevo anche rendere giustizia a questa complessità. Certo, e sull'isola, tra i confinati, ovviamente alcuni li abbiamo già citati, insomma ci sono personaggi come Spinelli, Rossi e lo stesso Sandro Pertini. E allora, per continuare un po' questo taglio che abbiamo dato alla conversazione, che effetto ti fa, come viene evocato oggi Sandro Pertini anche nell'epoca dei social, ex, cioè post mortem sostanzialmente? Sì, il Pertini che viene evocato è un po' il nonno buono anche lì, cioè a parte che è sempre e solo il Pertini del Quirinale, è il Pertini della finale dei mondiali dell'82 che si alza in piedi a esultare, è sempre questo Pertini con gli spigoli smussati, bonario ma fermo, anche lì sono tutta una serie di stereotipi. A me quel Pertini lì interessa veramente pochissimo, sia appunto il Pertini presidente, sia lo stereotipo nazional popolare sul Pertini presidente, e quello che è interessante è il Pertini del ventennio e della resistenza, ed è quello che io insomma ho messo sulle pagine dopo appunto averne studiato la vita, aver letto i documenti della polizia politica su di lui e insomma aver ricostruito la sua traiettoria dell'epoca, e soprattutto avendo visto, perché altrimenti non l'avrei fatto, avendo visto fin da subito, fin dalle prime ricerche del 2005, che gli altri confinati lo vedevano come una figura cardine, un punto di riferimento etico, comportamentale, cioè era quello a cui guardavano per tener duro molti confinati, perché si era in qualche modo posto con appunto il suo rigore eccetera come una sorta di portabandiera degli antifascisti al confine, e anche quasi di sindacalista, era quello che andava a rompere le balle alla direzione per conto dell'intera colonia, era quello che portava vertenze, istanze, proteste da parte dei confinati, e poi c'è, tutti dicono questa cosa della sua estrema eleganza, del fatto che ci tenesse tantissimo allo stile, di vestirsi sempre in maniera inappuntabile in modo da far vedere che si manteneva la schiena diritta e in qualche modo anche mettere in soggezione i fascisti. Ecco, questo è il Pertini interessante. Certo, ecco, ci sono tante cose ma il tempo stringe, che ti vorrei chiedere appunto, il libro ovviamente è pieno di citazioni, riferimenti, rimandi, connessioni, una me ne assumo la responsabilità, la spoilerò, si fa riferimento al malore attivo che insomma chi frequenta certi ambienti anche anarchici si ricorda per più o meno 20-25 anni dopo rispetto all'epoca in cui è ambientato la storia che racconti. Passano 25 anni ma il personaggio è lo stesso, perché appunto anche questo non è un segreto, il direttore del confino a Ventotene e Marcello Guida, che poi nei giorni di Piazza Fontana ritroviamo questore a Milano, è il famoso questore della questura dalla cui finestra Pinelli eccetera eccetera eccetera, quindi questa cosa non si poteva non non tematizzare in qualche modo. Eh no, certo, certo. Boming, io ti ringrazio, ovviamente. Grazie, invito le ascoltatrici e ascoltatori a comprare e leggere il libro. Io adesso un po' me la tiro, l'ho letto in anteprima ovviamente per preparare questa intervista, è davvero bello e quindi consiglio a tutti e a tutti di Grazie. Leggerlo. E tra l'altro, ecco, ci sarà una presentazione, se non sbaglio, a VAC 61 prossimamente. Sì. Il 23 aprile, la sera del 23 aprile, dalle 20, prima c'è la consueta cena sociale. Il VAG è uno dei migliori ristoranti in città, come si sa, è notorio che al VAG si mangia benissimo, quindi prima c'è la cena sociale di autofinanziamento dello spazio e poi subito dopo la cena, indicativamente alle 21, c'è la presentazione della macchina del vento. Insieme a me ci sarà una conoscenza, insomma, della Booming Foundation, Mariano Tomatis, mago e storico dell'illusionismo, che ha preparato una presentazione multimediale ispirata al romanzo. E invece, per chi ci ascolta da fuori Bologna, la primissima presentazione della macchina del vento sarà dopodomani, giovedì 18, alle 18.30 al Comunia, spazio occupato in San Lorenzo a Roma, e con me ci saranno Loredana Lipperini e Lorenzo Teodogno, che è il fisico romano a cui mi sono rivolto come consulente scientifico per le parti più legate alla fisica, ecco.